24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero, del tacchino, della bersanese. L'ha capito? Allora, farò un master in bersanese. Altro che bei tempi in cui cinguettavano come passerotti e tacchini. Ora siamo agli stracci, cari italiani, buongiorno, ben ritrovati con 24 mattino, siamo agli stracci. Oggi prendi Repubblica e Renzi fa un'intervista di due pagine, così mi prenderò il PD. Così rilancerò il partito, un partito di cui dice Renzi ha sbagliato tutto in questi giorni. Cari italiani, buongiorno, ben ritrovati, 24 mattino, siamo in diretta fino alle 9, come di consueto, 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi. Se volete c'è il numero per la segreteria telefonica, 024652-4492. E che dire, si apre la serranda del Parlamento. A un caffè si può avere? Il caffè volentieri a tutti quanti. Parlamento, forza forza gente, accorrete al Parlamento. Abbiamo barman generosi come Santa Claus, li paghiamo noi e con quello che paghiamo voglio bere tanto da tornare storto come il dottor Au. Allora, io sono abbastanza arrabbiato. Oh, barman, manda un altro cocktail. Tanto il bar mica è tuo, che te ne fotte. Sono abbastanza arrabbiato perché io dico che una classe politica che si deve rivolgere a un signore di 87 anni che un mese fa diceva no, per carità, la mia rielezione vorrebbe cadere nel ridicolo, perché questa classe politica non è riuscita a accordarsi su nulla, beh, vuol dire che insomma io sono abbastanza arrabbiato. Ma saluto Bimbo Alieno, il nostro blogger, il nostro analista finanziario, il nostro cosa devo dire? Buongiorno Bimbo Alieno, buongiorno a tutti. Se tu sei arrabbiato io sono furente, quindi. Ah, ecco, faccio bene? No, perché mi hanno dato del sovversivo. Mi hanno dato del sovversivo. Allora è successo questo. Ho fatto un tweet sabato, molto arrabbiato, molto risentito. Sicuramente mi sono lasciato prendere la rabbia. Ho detto un paese che si affida a un signore che non ha nulla di male, Napolitano per me è la vittima di questo, cioè è una persona straordinaria che è stato tirato, certo, è stato tirato dentro una classe politica di cialtroni, dobbiamo dirlo. Un paese che si affida a un signore di 87 anni per rifondare, per guardare al futuro, è un paese che è finito. Fuori tu dai guai. Che è finito. E andrebbe abbattuto. Ho scritto questa cosa anche con le maniere, mandato, ecco, golpista, fascista. Io in realtà ero al compleanno di mia figlia, quindi non sapevo nulla e non sapevo niente di quello che Grillo aveva detto, la marcia, le robe, non sapevo nulla, cioè è un pensiero che mi è venuto così. Perché tu sei furente, Bimbo Alieno? Io sono arrabbiato e tu sei furente perché? Sono furente perché è stata buttata via con tutte le forze possibili, tutte le forze sono state spese, mi sembra, allo scopo di buttare via qualunque soluzione e qualunque opzione, come dire, logica, alla ricerca di vendette, di questioni interne. Voglio dire, il PD è comunque il più grande partito del paese ed è un problema di tutti quello che è successo dentro il PD. Elettori o non elettori di quel partito, perché comunque è una risorsa nazionale e quello che è stato, quello che avviene all'interno del PD riguarda tutti quanti. Sì. E il modo in cui è stata gestita questa cosa, come l'evoluzione degli eventi dell'ultima settimana, è veramente imbarazzante. Devastante, sì, è devastante, è devastante. Tra l'altro, Puku, neanche un arachiri. Cos'è? Un seppuku, la differenza poi l'arachiri lo so anch'io, quello no, seppuku qual è? Aiuto. In questo momento allora, vado un po' per citazione a memoria, no, mi pare che il seppuku sia proprio il suicidio, quello premeditato per onore, come dire, il gesto riflessivo, no? Invece l'arachiri sia... sia il gesto più vabbè dai, non ti voglio fare entrare, non ti voglio far addentrare in queste cose, ma ti ci sei messo te, d'altro. Tra l'altro mi fanno sapere 88 napoletano, 88 gli ho tolto un anno, non so, l'ho ringiovanito così. No, è 88, 87, non so, verifichiamo subito. Adesso metto Giorgio Napolitano su Wikipedia e devo vedere, aspetta, lo facciamo in diretta. Intanto senti questa, bimbo alieno. Allora, tra l'altro mi guardo Miriam Lucchetti nella redazione, no, ci doveva esserci anche Matteo Salvini, ma non si è svegliato. Matteo Salvini non si è svegliato, bimbo alieno, che dobbiamo fare? Hai il numero di casa di Salvini? No. Secondo me è rimasto fino a tardi a vedere la partita. È andato a letto non tanto contento. La partita, porca miseria. Forse neanche tu sei tanto ma contento. Ma stai zitto tu, la partita. Ma ecco perché sei arrabbiato. Ma chi io pensavo fosse per Napolitano. Ma chi se ne frega della partita. Usi Napolitano come un politico qualunque per giustificare la zona. Per arrabbiarmi per la sconfitta del Milan. Sì, veramente squallido, lo so. Non l'avevo detto, sono arrabbiato per la vittoria della Juve. Ah, perché per cosa pensavi che fosse per Napolitano? No, sono furente per questa storia di Napolitano. Io dico un'altra cosa molto forte: il primo politico, parlo soprattutto agli amici della Lega, infatti vorrei avere qui Matteo Salvini, il primo politico che si lamenta per qualsiasi cosa possa fare adesso il Presidente della Repubblica Napolitano, tipo mettergli Giuliano Amato Premier, che quelli della Lega sarebbero contentissimi, farebbero dei gran sorrisoni, il primo che si lamenta lo chiama al telefono e se la deve vedere con me, va bene? Avete voluto Napolitano? La biciclettona l'usato sicuro e adesso vi beccate tutto quello che Napolitano deciderà. Ma senti questa, bimbo alieno, c'è fermento a Roma, c'è stata questa contestazione, uno dei video più cliccati è quando alcuni manifestanti che stavano andando in piazza incrociano Franceschini. L'hai visto questo video su Corriere.it? Certo, certo. Incrociano Franceschini che sta mangiando, c'è una vetrata che li divide, sta mangiando in un ristorante e senti un po'. Franceschini, ma riportacci Rimortacci tu, è un gran classico, ma poi senti lo slogan, no? Siccome sta mangiando Franceschini, cosa parte di coro? Vabbè, c'è sui giornali alcuni articoli anche sulle dure contestazioni e sul clima, il clima da qualcuno evoca al solito, il clima da Rafael, le monetine a Crax, insomma. Bimbo alieno, la situazione anche dal punto di vista sociale non è delle più tranquille, poi però bisogna stare sereni, insomma è giusto, c'è qualche manifestazione di piazza, però adesso non trascendiamo. Vabbè, però ascolta, se io e te che siamo due tipi riflessivi siamo qui arrabbiati entrambi, figurati le persone normali, voglio dire. No, è normale, siamo normali anche noi. No, ma nel senso, voglio dire, credo che questa rabbia che abbiamo sia diffusa, quindi certo che c'è di che preoccuparsi, però l'irresponsabilità di gestione della situazione mi pare talmente evidente che non so. E in tutto questo i mercati cosa fanno? Perché tu sei un analista di questo, oggi il Sole 24 Ore titola così, lo spread riparte da Napolitano, ecco, adesso tutti che guardano, a me questa è un'altra cosa che mi fa essere arrabbiati, sempre a guardare lo spread, cosa fa? Però che vabbè, cosa in realtà, il termometro certo. Come sarà la reazione dei mercati, come sarà la reazione di chi ci guarda con attenzione. Ma io credo nel breve anche abbastanza buona, nel senso che comunque Napolitano piace, l'idea che possa rappresentare a questo punto il segnale dell'arrivo di un governo, io lo chiamerei un governissimo di minoranza, un governissimo perché comunque sì, perché comunque coinvolgerà Scelta Civica, PD e PDL, in realtà coinvolge mezzo PD perché ci sarà probabilmente una scissione, quindi PDL sarà maggioranza, ma è di fatto una forza di minoranza, quindi insomma io chiamerei governissimo di minoranza questo che arriva. Sì, credo poi... che comunque al mercato non dispiacerà nel breve. Non dispiacerà. Però... i premier, guarda, i nomi che ci sono sempre Giuliano Amato o Enrico Letta. Però ieri Enrico Letta, però, se ho capito bene, Enrico Letta è stato impallinato dalla Bindi. Sì, è stato tolto dalla lista perché... E quindi come tolto dalla lista? Quindi io stavo dicendo impallinato dalla Bindi, quindi questo lo porta su molto in classifica. questa è una lettura corretta. Insomma, se è stato impallinato dalla Bindi, questo gli fa guadagnare la mia personale classifica un 10-15 punti almeno. Comunque Giuliano Amato e Enrico Letta, anche se il secolo XIX ha una linea diversa, che è questa: se non ce la fa Enrico Letta, potrebbe esserci anche la possibilità, il tandem, reggiti forte, il tandem, non so da dove è uscito, Passera Finocchiaro. Non lo so come. Oppure Chiamparino, un nome. Cioè, qua ormai vabbè, si sparano nomi così. L'unica cosa certa è che pare Napolitano voglia chiudere entro mercoledì. Perché dici mamma mia, no? Paglino dice come ta mamma mia, no? Cosa vuol dire mamma mia? Ma no, perché nel arco di 30 secondi mi nomini dopo la Bindi da Finocchiaro. Voglio dire, però con Passera anche. Passera, insomma, ha più credibilità, no? A livello Passera. Ma senz'altro, voglio dire, senz'altro cioè, adesso la cosa che mi ha un po' sconcertato è sentire il nome della Finocchiaro. Finocchiaro, va bene, anche te. Comunque, che è stata intervistata per chiedere se lei fosse bersaniana o al momento in cui bruciarono Prodi, no? E lei rispose: io sono finocchiariana. No, a me quello un che piace genio, no? Quello che abbiamo problemi di correnti all'interno di un partito. Fare addirittura l'individualismo. Quello che più ha sconvolto della Finocchiaro due giorni fa è quando c'è stata la contestazione al Caprani, che l'ha intervistata, ha detto: poi questi signori cosa vorrebbero questi signori? Anzi, adesso lo recupero. Sì, che diavolo vogliono questi signori? Che diavolo vogliono questi signori? Comunque Napolitano ha 87 anni, è nato il 29 giugno del 1925. Quindi se i calcoli non sono errati, compie 88 anni tra poco, però è ancora 87 formalmente, o no? Mi sono sbagliato, sì, giusto, no? 87, quasi 88. Senti un po' Grillo, l'analisi di Grillo su Bersani. Grillo che parla di Bersani, sentite ieri. Grillo che ha detto: non è un golpe, ma un golpettino. È chiaro che gli streaming, lui era il giochetto che faceva. Loro avevano bisogno di capire, di dimostrare agli italiani che noi eravamo quelli del no, no, no, che noi creavamo l'ingovernabilità. Lo sapeva già, non ha perso tempo, ha fatto finta di perdere del tempo con noi, ma il giochino era quello, darci la responsabilità dell'ingovernabilità. Il signor Bersani deve fare lui scouting da solo. Deve dire: io sono da 30 anni dentro questo sistema, sono parte dello sfacelo di questo paese, e nessuno di questi signori di destra e sinistra, neanche dal punto di vista umano, gli è mai passata l'idea di alzarsi in piedi di fronte alla nazione e dire: ho sbagliato, scusate. Questo insomma Beppe Grillo ieri, vabbè. 24 mattino. Milan, ma Bersani sembra Fantozzi, ragazzi. Questo è Fantozzi. Deve capire che si deve togliere dai coglioni. In piazza davanti a Montecitorio non c'erano golpisti, non c'erano marcisti su Roma, c'era soltanto gente veramente furente, non convocata da Grillo, perché la piazza è iniziata a riempirsi molto prima, verso le 2, le 3, le 4, gente che ha votato PD, che ha votato Grillo, cittadini comuni. Il golpe l'hanno fatto loro, ma danno la colpa a noi. E questo lo trovo un meraviglioso sistema italico per ribaltare le responsabilità. Bersani è illuso. Io non sempre stato di destra, però a questo punto qui non credo più né alla destra né alla sinistra. Sono le poltrone che fregano il nostro paese. Io penso che l'Italia oramai sia in una fase di malattia terminale e non penso che neanche il povero anziano che ce l'ha messa tutta, non ho tanta speranza. Poi ragazzi, ma lo sapete che la prima provincia a diventare leghista è stata la provincia di Bersani, Piacenza, tanto che li vogliono bene. La seconda cosa, ma dite a questi politici che non si facciano vedere il 25 aprile, che i morti si rivoltano nella tomba. Ma vorrei dire a questi del PD di trovarsi un lavoro, perché la prossima volta i grillini, tutti i ragazzi in casa parlano già di politica, convinceranno le nonne, le mamme, i papà a votare i grillini. Hanno appena eletto Napolitano e chi c'è in televisione? La Torre Romani. Bellissimo questo cambiamento. Non ne possiamo più. Sono incazzato nero e non ce la facciamo più. Io mi accodo a questo ascoltatore e l'abbiamo detto inizio trasmissione con Bimbo Alieno e anche con Matteo Salvini che ci ha raggiunto. Buongiorno, buongiorno onorevole Salvini. Mi sto riprendendo da, dalla sconfitta, eccolo lì. E anche Andrea, anche il nostro Bimbo Alieno ha detto sarà così, sarà stata una partita un po' così. È una partita da cui riprendersi, ma dobbiamo parlare di calcio, dobbiamo innervosirci subito, Salvini, oppure... Ma perché innervosirci? No. Non so se è più innervosente il Milan che fa pena o la situazione politica. Ecco, la situazione politica. No, adesso però Salvini, ecco, visto che lei è della Lega, adesso io lo dico, ho questionato anche un po' su Twitter col suo collega Pini due giorni fa, ci siamo scambiati qualche battuta. Adesso io dico, voi che avete, anche voi avete accettato questa cosa di Napolitano, se adesso vi mette Amato non potete dire nulla, perché adesso non è che va bene Napolitano e poi protestate se vi fa qualcosa che non vi piace. No, mi risulta che noi ad Amato abbiamo detto no fin dal primo minuto, quindi Amato proprio è fuori discussione. Amato, quello dei conti correnti e dei 30.000 euro di pensione al mese, è fuori discussione. Per noi è vero, sarebbe stato molto più facile dire di no a tutto, a tutti, e star fuori a far casino. Abbiamo fatto un ragionamento non di convenienza politica, perché se devo leggere appunto Twitter e Facebook, per noi sarebbe stato più comodo mandare tutti a quel paese. Noi riteniamo che l'Italia, così come sia organizzata, non difficilmente si riesca a salvare, come diceva un ascoltatore della vostra segreteria telefonica. Ma siete voi che dovreste salvarla, cioè voi che fate la politica. Di noi l'Italia così come è configurata è 20 anni che stiamo provando a salvarla, organizzandola in maniera diversa nel nome del federalismo e dell'autonomia, non ci siamo riusciti, quindi io penso che l'Italia così come è organizzata non si salvi. No, che sia a un punto in cui chi è in grado di salvarsi deve provare a farlo con le proprie forze. Insomma, c'è bel messaggio di speranza. L'Italia sta affondando, no, Salvini. Chi ce la fa, ce la fa. Chi non ce la fa. Non è un messaggio, è una constatazione. Se per 20 anni tu dici proviamo a tenere insieme tutti, ognuno con le sue responsabilità, e a uscirne tutti insieme, e per 20 anni ti ridono in faccia, ti bocciano la devolution, il federalismo fiscale, l'autonomia delle regioni e tutto quanto, e a questo punto se qualcuno ancora ce la può fare ad agganciarsi all'Europa lo dovrà fare, altrimenti andiamo a fondo tutti quanti. Andiamo a fondo. Noi ci siamo stati, ci hanno chiesto un atto di responsabilità, ci hanno chiesto di non mandare tutto a monte. Ripeto, per noi sarebbe stato più facile dire andate a quel paese tutti quanti, stiamo fuori con Grillo a far casino, a urlare, a guardare che cosa succede. Ma invece avete accettato questa cosa. Ma adesso chi volete? Perché pare che Napolitano, questo raccontano oggi i giornali, farà tutto in una settimana. Entro mercoledì vorrebbe l'incarico, domani consultazioni lampo, mercoledì l'incarico. Chi vorreste? È vero che bisogna fare in fretta perché... abbastanza, sì. Governando come Lega 3 regioni al nord, se non hai un interlocutore con cui parlare di cassa integrazione, di amianto, di case di riposo, è difficile non avere un interlocutore. Amato sicuramente no. No, Amato perché, no. Perché è Enrico quello... Letta, Enrico Letta vi piace? Ma non sto a fare il Toto, nomi. Vorremmo capire chiunque fosse indicato per fare che cosa. Ripeto, c'è un'emergenza che si chiama cassa integrazione in deroga, che riguarda decine di migliaia di persone. e c'è un'altra emergenza che riguarda i soldi ai comuni, che almeno al nord ci sono ma non possono essere. E vabbè, ma quelle cose lì, no? Bimbo alieno, quelle cose lì dovranno fare oggi anche Alesina e Giavazzi sul Corriere, dicono quelle cose lì, meno tasse sul lavoro, cassa integrazione, cioè le cose fa salvare le imprese, il credito, cioè le cose che devono far ripartire il paese, perché sennò ma sì, vabbè, faranno degli interventi di assoluta stretta emergenza. Non aspettiamoci, voglio dire, le riforme strutturali del paese da un governicchio che salta fuori adesso, mettendo insieme le parti sbriciolate di quello che c'è. Comunque, governicchio che tra l'altro. La cosa più alta che possiamo aspettarci sia la legge elettorale. Sì, ma guarda, ma proprio ma al massimo. La più alta che possiamo. Entriamo nella prima settimana decisiva per la riforma elettorale. Sì, poi non faranno. Vabbè, Salvini, qua io mi devo fermare. Insomma, che succede? Faccia un pronostico. Qui va bene così. Ci siamo affidati a un signore di 87 anni perché la classe politica l'ha vista come unica ancora di salvezza. Bel messaggio per il futuro da parte della classe politica. È disperante. È assolutamente disperante. Io faccio il parlamentare europeo, mercoledì sarò a Bruxelles, mi guarderanno con un tanto d'occhi perché è disperante. Perché tagliava fette di mortadella sabato in piazza, no, venerdì in piazza? No, non c'ero. Non c'era. A me la mortadella piace, no, perché Prodi, ecco. Ah, Prodi. In questa situazione è disperante, no. Prodi, Presidente della Repubblica, adesso. Botta sua, con tutto il rispetto, era in Africa, stava tardando a tornare. Vabbè, non ce l'ha fatta. Non era ce l'ha un fatta. Problema logistico, mettiamola così. Non ce l'ha fatta, poco mali. Va bene, ci fermiamo qui. Grazie a Matteo Salvini, grazie a Bimbo Alieno per essere stati con noi. È tempo di giornale radio delle 7. Poi la rassegna stampa, ci sarà anche la Gazzetta dello Sport. Pensate. E sono venuto apposta perché per sbussare un po' le cose. Noi dobbiamo questa gente qua non prendere neanche tanto sul serio, perché dobbiamo anche un po' sgrassare questa politica fatta di insulti e di cose. Anch'io mi calmerò. Infatti non ho detto neanche una parolaccia adesso. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. E allora, siamo pronti a leggere i giornali quando sono le 7:21 minuti. Ben arrivati, ben svegliati, cari ascoltatori, se siete svegli ora. Si apre una settimana con Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica, che non è una notizia di una settimana fa, è una notizia di una settimana fa, ma è una notizia anche di oggi. Come sapete, la rielezione, la riconferma, vi piace questa riconferma? Di questo parleremo alle 8:15, anche con i microfoni aperti, 800 24 00 24, telefonate dalle 8. E per prenotare i vostri interventi avremo con noi Giancarlo Galan del Popolo della Libertà, avremo con noi l'onorevole Simona Bonafè del Partito Democratico, renziana. Vi piace questa scelta? Io sono abbastanza infuriato, ma io sono un pericoloso sovversivo, si sa, come qualcuno mi scrive su Twitter. Sono arrabbiato perché scegliere una persona di 87 anni, quasi 88, degnissima, straordinaria persona, per trovare la svolta per il futuro, come dire, mi sembra un pochino un segno di disfatta totale. Ma ne parlano anche i giornali che andiamo appunto a sfogliare. È lunedì 22 aprile, allora i titoli intanto. Il Sole 24 Ore, un governo per lavoro e imprese, questo è il titolo di apertura, mentre il Corriere della Sera, governo favorito, amato, questa è la prima pagina. Repubblica, Renzi, così rifonderò il PD, è un'intervista di due pagine al sindaco di Firenze. Il Giornale, sia all'accordo ma via l'IMU. La Stampa, Napolitano, subito il governo. Il Secolo XIX, niente ministri PD. la rivolta del partito, questa è la linea secondo il Secolo. Il Messaggero, Renzi, il PD è da ricostruire, l'Unità, Napolitano, il governo subito, il Fatto Quotidiano, il bis salva il Caimano e la banca del PD. E poi c'è anche un altro titolo, prima Ideona, violante alla giustizia. Questi sono i titoli dei quotidiani che trovate in edicola. Prima però di tuffarci sulla lettura politica di quello che succederà dopo la rielezione di Napolitano, due notizie di politica, come dire, di taglio, che riguardano due persone che sembrano un po' ai margini, ma che sono sempre al centro dell'attenzione della cronaca. Una è Claudio Scajola, che ancora una volta piomba sulle prime pagine dei giornali, in questo caso sulla prima pagina del Secolo XIX, per via di una notizia che viene pubblicata dal quotidiano di Genova, e che va sotto questo titolo: trovati a casa di Scajola dossier dei servizi segreti. Sapete che nei giorni scorsi c'è stata una perquisizione nella casa per presunti abusi edilizi, finanziamento illecito, cioè vicende legate alla casa. Ma nella perquisizione, raccontano Matteo Indice e Marco Menduni a pagina 6 del Secolo XIX, dossier segreti presi dal Viminale trovati a casa di Scajola. E a questo punto l'ex parlamentare e ex ministro è indagato per ricettazione. Dalla ricerca di documenti su ipotetici sconti fuorilegge nella ristrutturazione della casa, la polizia si è imbattuta in un tesoretto di dossier. Alla fine le carte sequestrate tra la villa e lo studio di Scajola magari non dicono moltissimo sui tariffari del restyling architettonico, ma accendono la luce su molto altro. Si scopre in primis che l'ex ministro custodiva in un cassetto un documento inequivocabile, una nota riservata nel 98, con cui i carabinieri informavano la procura di Imperia che Eugenio Minasso, al tempo leader provinciale di Alleanza Nazionale, quindi parlamentare nel centrodestra, oggi vice coordinatore regionale del PDL e nemico giurato dello stesso Scajola era un assiduo consumatore di cocaina. Non solo, spulciando qua e là, i poliziotti della postale hanno trovato pure carteggi su inchieste della procura romana, su Berlusconi, documenti dei servizi segreti, incartamenti su nomine al comune di Imperia. E quindi ecco il decreto che viene cambiato anche con l'accusa di ricettazione. Per la verità, Eugenio Minasso viene raggiunto dal Secolo XIX, si difende così, è una vicenda molto vecchia, nata quando una persona di cui ero effettivamente molto amico venne fermata con un po' di droga e raccontò cose non attendibili agli inquirenti per cercare di salvare se stesso, ma tutto si fermò lì. Insomma, si difende cocaina mia insaputa, questo praticamente. Però in ogni caso la notizia è questa: la sorpresa dalle perquisizioni per i lavori nella villa, adesso una nuova indagine per ricettazione per Claudio Scajola, che appunto è stato trovato in possesso di dossier dei servizi segreti presi al Viminale quando era ministro dell'Interno. Davvero non passa giorno senza una pena giudiziaria per l'ex ministro. Mentre l'altro personaggio che riaffiora, pensate, due giorni fa proprio ci pensavo, vedete le coincidenze, ho detto: ma che fine avrà fatto Nicola Cosentino in carcere? È possibile che non si sappia nulla di lui? Eccolo qui sul Giornale. Parla, una sorta di intervista, in realtà non si può intervistare una persona in carcere, e Gianmarco Chiocci sul Giornale fa capire, insomma, che fa arrivare la sua voce dal carcere di Secondigliano, non si capisce bene come, se via mail, se via attraverso alcune persone che sono entrate a trovarlo in carcere e poi hanno parlato con il giornalista. Comunque, Gianmarco Chiocci: che orrore il carcere da innocente, parla l'ex sottosegretario del Popolo della Libertà Nicola Cosentino. Dirò una cosa forse banale, inizia così l'intervista che trovate a pagina 13, ma quella che mi viene in mente ogni sera quando spengono le luci della cella e resto solo con me stesso. Il carcere da innocente è un obbrobrio infinito, una sopraffazione insopportabile, impossibile da descrivere a parole. So che non sarò il primo né l'ultimo a essere vittima di un'ingiustizia profonda, ma credetemi, la carcerazione preventiva in attesa di un processo è una vergogna, non per Cosentino ma per quanti, e sono tanti, a causa di accuse ignobili che poi si riveleranno insussistenti, vivono nella mia stessa condizione. condizione. Così dice Nicola Cosentino, che al momento non è stato condannato di nulla. Le accuse per lui sono gravi, insomma, si scaglia contro lo strumento della carcerazione preventiva. Dice ancora Cosentino: politicamente davo fastidio a tanti, a chi sulla carta era un mio alleato. In carcere ricevo tantissime visite di parlamentari, ci sono invece 4 o 5 parlamentari più alcuni personaggi noti in campagna che non si sono mai fatti vedere o sentire, anche per lettera, per interposta persona. Se la riconoscenza non è di questo mondo, la viltà non merita commenti. E poi alla domanda: qualcuno ha ipotizzato che lei goda di un trattamento di favore in cella? Risponde Cosentino: come no? L'esistenza di una semplice imputazione non ancora confermata è un trattamento di favore? Essere obbligato a vivere tra quattro mura con le sbarre alle finestre, aspettare con ansia l'ora d'aria, sentire la claustrofobia nei trasferimenti col furgone della polizia penitenziaria, la chiamata e corsia preferenziale? Mi sono adoperato per far vedere i film, oltre alle partite di calcio che i detenuti già vedono col pacchetto Sky. Mi sono iscritto alla squadra di calcio con gli altri reclusi, ho richiesto un dizionario di italiano per chi non ha la fortuna di aver studiato, ho chiesto ai miei colleghi una colletta per comprare i colori a chi nel tempo a disposizione ama dipingere. Questo faccio. E alla domanda: segue la politica in TV? Chiude l'intervista a Cosentino: vedo i TG, lo spettacolo è davvero deprimente, passa il tempo, cambiano i governi, ma l'unico che alla fine vince è sempre lui, Silvio. Così parla Nicola Cosentino in carcere da innocente, dice lui al giornale. Allora, 4 minuti di pubblicità e poi ci tuffiamo nel cercare di capire se la giornata sarà già decisiva, nel senso che parlerà oggi Napolitano, il giuramento promette entro mercoledì, dopo consultazioni lampo, di dare il nuovo incarico per formare il governo. A chi lo darà? In testa ancora, tra i totonomi, Giuliano Amato ed Enrico Letta, mentre su Repubblica parla il sindaco di Firenze Matteo Renzi in una lunga intervista, dice: così rifonderò il PD. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccoci qui allora alle 7:35 minuti, tuffiamoci nella lettura di quello che potrebbe succedere da qui a questa settimana. Detto che la maggior parte dei giornali, ovviamente della rassegna stampa, oggi sarà concentrata proprio su questo. Allora, è stato riconfermato Giorgio Napolitano. Che succederà? Tutti i giornali raccontano che Napolitano oggi giurerà alle 17 con discorso alle Camere. E tra l'altro annunciano tutti i politici, raccontano che, come dire, il capo dello Stato confermato gliele canterà, perché sicuramente si toglierà qualche sassolino dalla scarpa, come dire, a dire: siete venuti da me, una persona che fino a un mese fa diceva che sarebbe stato ridicolo eleggere nuovamente e confermare il Presidente della Repubblica in carica, perché ovviamente la politica non sapeva più come uscirne. E allora, cosa farà poi Napolitano? Tutti i giornali raccontano: entro la settimana, consultazioni lampo domani e mercoledì già forse l'incarico al nuovo Premier. Chi sarà? Eccolo qui, si va sui retroscena. I nomi che circolano di più sono sempre Giuliano Amato ed Enrico Letta. Pagina 3 del Corriere della Sera, Marzio Breda: il Colle non cede, deve essere politico. E cioè il prossimo governo. Quali sono e di che natura i termini entro i quali Napolitano ha accolto sabato l'appello dei partiti accettando la rielezione? Con questa domanda inizia Marzio Breda l'articolo. Come ovvio, non si tratta di termini di calendario per annunciare fin d'ora l'orizzonte temporale che intende assegnarsi. I termini cui alludeva l'altra sera il presidente sono dunque altra cosa, sono le premesse che lui ha indicato ai leader come base minima per aderire alla richiesta di restare al suo posto. In testa a tutti l'intimazione che ognuno faccia il proprio dovere per superare questo tormentato passaggio politico. In una parola, che ciascuno si assuma la responsabilità di dare un governo al paese e che onori l'impegno. Ecco il significato centrale del discorso che il capo dello Stato pronuncerà oggi davanti alle assemblee parlamentari al momento di giurare. Cosa vorrà dire intanto, dice Breda, intanto scongiurerà le interpretazioni che nel tentativo di delegittimarlo evocano manovre oscure, inciuci inconfessabili, addirittura un golpe. Non c'è stato, invece, chiarirà nulla di tutto questo, ogni passaggio si è svolto in assoluta limpidezza. E comunque non esiste, non esisterà mai alcuna forma di dittatura napolitano, messa tra virgolette. Certo, decisivo, racconta Breda, sarà il profilo del potenziale premier, per il quale non è un mistero che Napolitano vorrebbe un uomo della caratura di Giuliano Amato. Ecco, qui il Corriere mette Giuliano Amato come nome possibile, che è il nome che poi circola un po' per tutti. C'è il veto della Lega, questo sì, ma Giuliano Amato resta in pole position. Anche nel retroscena di Repubblica firma Francesco Bei e Alberto D'Argenio a pagina 15, il titolo è il PD frena sulle larghe intese verso una squadra del presidente e Amato torna in pole position. In quel presidenzialismo di fatto in cui siamo finiti da sabato, i leader politici, scrive Repubblica, si chiedono smarriti cosa ne sarà di loro. Governo del presidente, larghe intese. La verità, ammette un dirigente del PD, è che dopo aver implorato Napolitano di ricandidarsi, nessuno di noi è in grado di porre condizioni. Aspettiamo di sapere cosa ci dirà oggi. Sappiamo solo che ci prenderà a sberle. Ecco, questa è la conferma di come sicuramente, come vi dicevo, Napolitano qualche sassolino dalla scarpa sulla incapacità totale della politica di questi 50 rotti giorni se lo toglierà, immagino, oggi pomeriggio. Comunque, continua Repubblica, nell'attesa del discorso di insediamento, la domenica è passata tra intense consultazioni di tutti con tutti, con effetti surreali come la telefonata che c'è stata tra Mario Monti ed Enrico Letta, ovvero tra il possibile ministro degli esteri e il possibile vice premier del futuro governo. Monti: ciao Enrico, ma tu ci hai capito qualcosa di cosa farà Napolitano? Letta: purtroppo no, nemmeno noi sappiamo nulla. Questa, secondo Repubblica, la telefonata tra Monti ed Enrico Letta di ieri, che riassume un po' anche l'incertezza di quello che succederà. Certo, impazza il Toto Ministri, riparte il Toto Ministri, intanto anche il Toto Premier. Sul secolo XIX Giovanni Mari fa una lettura un po' alternativa, a parte i nomi di Amato e Letta. Anzi, il secolo XIX dice che Amato è un po' già messo in secondo piano perché la Lega è contraria. Quasi tramontato viene dato per il secolo XIX, tanto che il premier in pectore più quotato resta Enrico Letta, ma visti i malumori interni, una rotta di riserva porta il nome di Anna Finocchiaro e sarebbe la prima premier donna, oppure Corrado Passera, e ancora spunta anche Chiamparino. Vabbè, insomma, è partito questo Toto Nomi. Sul giornale c'è anche addirittura il Toto Governo: presidente del Consiglio o Giuliano Amato, Enrico Letta, vicepresidente del Consiglio Alfano, ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni o Salvatore Rossi, ministro degli esteri possibile Mario Monti, all'interno cancellieri, alla giustizia Violante. Vabbè, insomma, ci sono tutti i nomi già fatto, secondo il giornale: alle riforme Quagliariello, all'agricoltura Giorgetti della Lega, sviluppo economico Galli o Giovannini, presidente dell'Istat, ministro alla difesa Franceschini oppure confermato Di Paola. Vabbè, questo, secondo il giornale, è il Toto Ministri. Che succede invece in casa PD? In casa PD nel frattempo è uno sfascio totale. Bindi ieri ha detto, ha messo il veto su Enrico Letta: è bravo, sarà un futuro bravo presidente del Consiglio, lo conosco, è un dirigente bravo, ma non è questo il momento, perché nel PD si alzano anche le voci grosse di chi dice non vogliono fare il premier. Addirittura, secondo alcuni del partito, non dovrebbe esserci nessun ministro del Partito Democratico, una sorta di quasi di ritirata per smarcarsi da quello che potrebbe essere un governissimo che può durare quanto? 6 mesi? Un anno? Il titolo, per esempio, della Stampa è questo: il PD ora non vuole il premier, la Bindi stoppa un governo Letta e anche i giovani turchi, cioè una delle correnti del PD, puntano a non legarsi le mani. Comunque domani ci sarà il vertice. Nel PD volano anche gli stracci: Marini che accusa Renzi, è ambizioso, sfrenato, ovviamente è stato impallinato, la fedelissima di Bersani, Chiara Geloni, intervistata dal secolo XIX a pagina 4, dice Prodi è stato affossato dai renziani. E Renzi che fa? Renzi fa un'intervista a Repubblica, l'intervista è di ben 2 pagine, firma Claudio Tito. cambiare il Partito Democratico per cambiare l'Italia. Questa è la sfida lanciata da Renzi, due pagine di intervista, pagina 2 e 3. Dice tante cose, ovviamente il sindaco di Firenze, il titolo è questo: ecco come voglio rifondare il PD, un anno di governo e poi al voto. Il sindaco di Firenze è durissimo: partiamo da quel che è successo, il PD ha avuto una strategia perdente in quasi tutto, ha inseguito le formule e i tatticismi regalando la leadership della discussione una volta a Grillo e una volta a Berlusconi, ha rincorso e non ha guidato. Questa è una settimana decisiva per imprimere una svolta. Io sono rimasto sgomento e disgustato per gli insulti ai parlamentari da parte dei grillini. Io difendo Franceschini e Fassina. Ogni forma di violenza va condannata, ma dobbiamo essere noi a uscire dall'impasse. Il vero problema ora è il lavoro. E riguardo però al futuro, dice alla domanda perché non fa lei il premier, il capo del governo lo sceglie il presidente della Repubblica, risponde Renzi. Il problema quindi non si pone, il punto è rendere più smart l'Italia e più aperta. Riguardo alla candidatura, la domanda si candida o no, non so come, non so quando, ma io ci sono, ora non voglio aprire un dibattito su di me, non sono in cerca di una seggiola. Io in questo partito ci sono e ci resterò con Fassina e con Orfini, non mi candiderò per il gusto di candidarmi. Riguardo al governo, quanto durerà? Il meno possibile, diamoci un tempo, ma se in sei mesi o un anno realizza un po' degli interventi sul lavoro, ci guadagna il PD e il paese. Insomma, un Renzi pronto ad attaccare. Dall'altra parte però, che cosa vogliono i vertici del PD? Beh, secondo qualcuno vogliono mantenere Pierluigi Bersani. Come dire, prima di vendere la pelle dell'orso è meglio, no? È meglio ucciderlo, politicamente parlando. E infatti, secondo il Corriere, Maria Teresa Meli, molti dei vertici del PD, temendo il crollo finale, chiedono al segretario di restare. Questo è il titolo di un PD che certo sembra lo sfascio. Il fotogramma raccontato dal Corriere, da conservare nel film del PD in Ansia da Quirinale, è venerdì sera, Pierluigi Bersani che parla all'assemblea del Capranica, poi se ne va senza aspettare repliche, domande, interventi. Un gruppetto di colonnelli priva di generale chiede al consigliere politico di Bersani, Miguel Gotor, di prendere lui le redini dell'assemblea. Lui dice: ma io perché mai? Non sono neanche iscritto al PD. Ecco, questa scena la dice lunga su quello che sta accadendo all'interno del Partito Democratico. Ma ora, temendo il crollo, molti dirigenti dicono a Bersani: rimani. E invece il Corriere va anche a Bettola, nel paese di Bersani, Francesco Alberti, trovate a pagina 6 il resoconto di una cittadina, Bettola, dove ieri pioveva a dirotto. Parla qualche parola la moglie di Bersani, Daniela Ferrari, 60 anni, attorno a mio marito davvero un bell'ambientino, dice. È un po' che non vediamo Pierluigi in paese, dicono alcuni, e poi parla la moglie di Bersani che intanto smentisce le lacrime. Non è vero che ha pianto, c'è quella foto di Bersani dopo l'elezione al Quirinale che si tiene la faccia tra le mani, non è vero che ha pianto. È un gesto per lui abituale, lo fa anche quando ride, non è tipo da queste cose, dice la moglie. E poi aggiunge: mio marito ha la coscienza tranquilla, sa perfettamente di aver fatto ciò che credeva più giusto. Non so se possono dire altrettanto alcuni di coloro che l'hanno affiancato in queste settimane. Davvero un bell'ambientino, non c'è che dire. Questa la moglie di Bersani su quello che succede all'interno del PD, dove volano le accuse: traditrice, traditore, no, traditore tu, anche Alessandra Moretti, fedelissima di Bersani, si difende: io traditrice, è peggio Vendola. Insomma, questo è il clima. Allora, rispondo a un ascoltatore che mi chiede: ma perché nessuno parla delle elezioni regionali in Friuli? Forse perché le urne sono aperte e si chiudono oggi alle 15, caro ascoltatore, e magari insomma è meglio stare un po' in silenzio, e poi dopo ne parleremo, vedremo come andrà a finire domani. Allora, come ha detto Alessandra Moretti, si difende dall'accusa di avere tradito, visto che ha votato scheda bianca anche lei in una delle votazioni quando è stato scelto Marini. Io traditrice è peggio Vendola. Bersani non ha neanche risposto al suo saluto, le chiede Tommaso Ciriaco. Ma no, non è vero, mi ha salutato, io gli ho detto che forse è il caso che ci parliamo. Io posso guardarlo negli occhi, a differenza di chi lo abbraccia e lo ha pugnalato alle spalle. Dicono che sia la traditrice, ma vendola ai tabacci di quelli, cosa diciamo? E di quelli che si sono spellati le mani per Prodi e poi han tradito? Io Bersani continuerò a guardarlo negli occhi e lui lo sguardo non lo sposterà. Ha già capito la persona che sono. Questo Alessandra Moretti. Mentre c'è stata la contestazione, l'avete vista, è uno dei video più cliccati sul Corriere.it, l'abbiamo anche mandato in onda come audio, la contestazione a Franceschini, che viene intercettato da alcuni manifestanti che stanno andando in piazza e gli urlano mentre al ristorante: che te vada per traverso, che te vada per traverso. Vabbè, stava mangiando due spaghetti, ha tentato di replicare, insomma il clima è di un po' di tensione non indifferente. Franceschini contestato al blitz al ristorante, processo su Facebook, così a pagina 9 del Corriere. Oppure insulti a Franceschini, la bufera è sui 5 stelle, scrive Repubblica. Perché l'accusa è, sono loro che erano in piazza, la Roberta Lombardi, il capogruppo del Movimento 5 Stelle, dice non erano grillini quelli che hanno contestato, però sta di fatto che sicuramente molti del Movimento 5 Stelle sono scesi in piazza. Anzi, a questo proposito ci sono state molte polemiche sul comportamento di Beppe Grillo, che prima ha parlato di golpe, tutti in piazza, poi sono andati in piazza, poi non si è visto, poi ieri si è corretto, ha parlato di golpettino, poi è andato in piazza, però in una fiumana di persone è stato forse consigliato dalla Digos di andare via, così dice lui. Insomma, sono due giorni che con la piazza si sta un po' giochicchiando. E allora sul Messaggero Grillo si corregge: un golpettino furbo, voteremo le leggi giuste. C'è anche questa foto di lui, sale un po' sul predellino e sul tettuccio della macchina, un po' simil Berlusconi, un po' più diciamo arzillo. Show di Grillo senza comizio, un golpettino istituzionale furbo, anche pagina 8 del Corriere della Sera. Ieri ha fatto una conferenza stampa, ma Mattia Feltri racconta sulla stampa un po' la retromarcia sul Colosseo. Beppe ci ha lasciati soli, Mattia Feltri racconta un po' gli umori della piazza. Alle 17 di ieri, 24 ore e mezzo dopo aver scritto sul blog che era in corso un colpo di Stato, Grillo ha preso il camper, ha lasciato Roma. Da tre ore la sua gente, convocata dai moderni ritrovati della tecnologia, a cominciare dal tweet mattutino di Roberta Lombardi, aspettava sotto il sole nella piazza Santi Apostoli, appuntamento alle 15. I più erano arrivati alle 14, la sorpresa è che a dare un punto di riferimento il palco non c'era, ma tutti erano lì con la rabbia, l'entusiasmo della folla. E poi però tutti a casa. Insomma, il resoconto di questa retromarcia dell'ex comico che rinuncia al comizio, la Lombardi che annuncia si va a casa, un po' di confusione, un po' di tensione, ma poi questa marcia o retromarcia, questa marcia non c'è stata, c'è stata la retromarcia. Insomma, due giorni un po' di confusione anche da questo punto di vista. Sul Repubblica: il leader sta in piazza solo un minuto, la Digos mi ha detto di andare via, così su Repubblica pagina 11. E Berlusconi invece, il centrodestra, racconta il Corriere, ora vuole scelte forti. Il PDL insiste sulle larghe intese, chiusa per sempre la stagione dei tecnici. Si vuole, scrive il giornale, anche un accordo di 2 anni, oppure si va a votare. C'è ancora la polemica tra Rodotà e Scalfari. Insomma, cari ascoltatori, quanta politica. E il momento è decisivo sicuramente, ma quanto immobilismo da parte della stessa politica, tanto che racconta il Sole 24 Ore, l'idea è di fare riforme subito contro la crisi. Il Sole mette anche a pagina 2 e 3 quello che sono l'elenco delle riforme da fare assolutamente: occupazione, pagamenti alle imprese, il fisco. Queste le tre emergenze che sono tutte riepilogate a pagina 2 e 3, punto per punto, sui pagamenti alle imprese, gli ammortizzatori sociali, le detrazioni del 55% sul risparmio energetico, l'imposta sul valore aggiunto, la nuova tariffa dei rifiuti. Che si occupassero un po' di queste cose concrete invece dei soliti teatrini della politica a cui assistiamo da giorni. Anche Alberto Alesina e Francesco Giavazzi Sul Corriere della Sera, la vacanza della realtà è finita, il nuovo governo, chiunque lo guiderà, dovrà dare una risposta rapida e concreta ai problemi del paese, altrimenti Grillo lo sommergerà. Scrivono Alesina e Giavazzi. All'antipolitica, al populismo c'è un solo antidoto: fare qualcosa e finalmente farla bene. E in campo economico i due studiosi dicono ci sono due priorità: abbassare le tasse sul lavoro e investimenti e far ripartire il credito a famiglie e imprese. E poi c'è tutto l'editoriale, non ho tempo di leggerlo. O si fanno queste cose, scrivono Alesina e Giavazzi, oppure Grillo sommergerà anche questo nuovo tentativo della politica. Siamo arrivati alla fine, c'è la Gazzetta dello Sport, mi dicono straccerà la Gazzetta. La Gazzetta si straccia come ho fatto per Milan-Barcellona, perché per le partite che contano, quelle sono le partite che contano. E ieri c'è stata una partita di campionato, insomma, un amichevole di lusso, doveva finire 0-0, ma insomma, quando una in squadra giocatori come Amelia Abate, vabbè, finita 1-0. Comunque, a tutta Juve, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport. Domenica scudetto? Questo è il punto di domanda. Mancano credo 4 punti, insomma ormai è fatta, io lo dicevo da mesi, di sospendere il campionato per manifesta inferiorità delle rivali della Juventus. Ventiquattro mattino, la politica nel tunnel. Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:17. Io l'ho già detto, l'ho detto da sabato, l'ho detto alle 6:30, a me questa situazione attuale fa abbastanza arrabbiare, cari italiani, perché ieri Libero titolava così: il nuovo che avanza, effettivamente. Insomma, qui abbiamo un'intera classe politica che è incapace di prendere qualsiasi decisione sul governo, prima, e poi si è detto, vabbè, allora prima bisogna eleggere il nuovo inquilino del Quirinale, poi pensare al governo, e che fa questa classe politica? È incapace di scegliere un inquilino al Quirinale, con gli psicodrammi a cui abbiamo assistito, e poi sceglie di affidarsi come ultima ancora di salvezza, con una mossa disperata, a un signore, un degnissimo signore della politica italiana, che ha 88 anni quasi, e che tra l'altro 2 mesi fa diceva queste parole. Francamente non credo che sarebbe onesto dire state tranquilli che fino all'età di 95 anni io posso fare tranquillamente il Presidente della Repubblica. Ecco, appunto. Oppure diceva qualche tempo fa, ancora più di recente, il 14 aprile, la mia rielezione sarebbe una non soluzione, perché ci vuole il coraggio di fare scelte, guardare avanti, sarebbe sbagliato fare marcia indietro, sarebbe ai limiti del ridicolo, una soluzione pasticciata e all'italiana. Eccoci qua, parola di Giorgio Napolitano, che ora è il nuovo Presidente della Repubblica. E che governo ci sarà? Quale Premier? Ne vogliamo parlare anche con voi, cari ascoltatori. 800 24 00 24, vi piace questa soluzione definita pasticciata all'italiana dallo stesso protagonista, cioè Giorgio Napolitano? Con noi ci sono due politici, l'onorevole Simona Bonafè del Partito Democratico, buongiorno e benvenuta, eccoci. Buongiorno. Renziana, possiamo dire così, della pattuglia dei renziani, che messa così, come dice sempre Renzi, sembra una malattia. No, che invece no, non lo è. Direi prima di tutto del Partito Democratico, è per far capire agli ascoltatori. Giancarlo Galan, buongiorno e ben ritrovato nel Popolo della Libertà. Buongiorno. Berlusconiano si può sì, dire sì, lo dica pure, non mi sembra affatto una malattia. No, infatti. Allora, una cosa è certa, almeno dirigente anonimo del Partito Democratico citato da Repubblica dice non sappiamo cosa farà Napolitano, e questa la prima domanda che farei all'onorevole Bonafè. Ma una cosa è certa, oggi ci piglierà a sberle quando parlerà al Parlamento. Lei lo teme e secondo lei lo farebbe bene Napolitano? Direi che farebbe assolutamente bene a prenderci a sberle, anche perché nell'analisi che lei faceva nell'introduzione, ahimè, mi ci ritrovo. Indubbiamente Napolitano è una figura di altissimo livello. Guardi, io quando nei giorni passati facevo l'identikit della Presidente della Repubblica che mi sarebbe piaciuto, teso a dire che ci voleva un Napolitano 2, quindi una figura con le caratteristiche di Napolitano, questo per dire che è assolutamente una figura di tutto rilievo e insomma sono contenta che il Presidente della Repubblica sia lui. Dopodiché è evidente che, come dice il Corriere, come diceva il Corriere della Sera nei giorni passati, è la miglior soluzione nella peggior situazione, cioè c'è una classe dirigente che ha assolutamente dato prova di, appunto, di non aver saputo gestire questa fase così importante, al tempo stesso così delicata. Però lei ci deve anche dire, tra poco ne parleremo, anche questa vicenda dei 100 rotti traditori. Effettivamente lì nel segreto delle urne qualcosa è successo. Ma guardi, questa indicano anche voi renziani sulla vicenda di Prodi. No, ma allora guardi, chiariamo subito una cosa. Quando noi avevamo delle perplessità forti su Franco Marini, perché non ritenevamo che fosse la figura giusta a guidare la più alta istituzione della nostra Repubblica. L'avete detto. E l'abbiamo detto con molta chiarezza, con molta trasparenza. Io ho anche, come dire, dichiarato e scritto su Facebook che non avrei votato Franco Marini. Quindi, voglio dire, questo è il nostro atteggiamento di estrema trasparenza. Chi addebita a noi questo giochino sporco su Prodi, insomma, lo fa strumentalmente, perché noi nei giorni passati abbiamo sempre ritenuto anche apertamente che Prodi fosse una delle figure migliori e più accreditate. Quindi Respinge al mittente le accuse, insomma. Dopodiché le dico anche che guardi, io quando ho contribuito a fondare il Partito Democratico nel 2007 ormai, cioè, pensavo a una cosa un po' diversa da quella che si è manifestata poi nell'ultimo periodo, e questa storia dei franchi tiratori mi ricorda i giochini della Prima Repubblica, e non le nego che mi rammarica molto e mi ferisce molto. No, ma comunque speravo di avere persone dentro il mio partito di, come dire, trasparenza e coraggio, e questi giochini sono davvero penosi. Però del PD ne parleremo, anche perché oggi Matteo Renzi fa una lunga intervista su Repubblica, così ricostituirò il Partito Democratico, e poi insomma è un PD, è un Partito Democratico che è in pezzi. Non so se Galan vuol partire da qui o non gliene frega niente a lei che sia in pezzi il Partito Democratico. No. Anzi tanto che non è il caso di maramaldeggiare di dire che non me ne frega niente, ma insomma invece frega tutti gli italiani il fatto che ci sia un Partito Democratico così allo sbando, così tragicamente incapace di seguire una linea, di votare un nome, di fare quello che lo 0,3% di voti in più gli avevano dato. Perché va ben generalizzare tutto, è vero che la politica ha dato uno spettacolo pessimo ancora una volta, ma è vero anche che lo spettacolo indecente l'hanno dato gli unici che si erano arrogati il diritto, la pretesa di farlo, per chi aveva vinto per uno 0,3% in più le elezioni. Dice lei adesso, dovevano fare quel governissimo subito, non si arrivava a questo. Quello che abbiamo detto il giorno dopo le elezioni, quello che ha detto Napolitano il giorno dopo le elezioni, un governo subito che tenesse conto del risultato delle elezioni, un presidente condiviso. Adesso sentirmi parlare di trasparenza, di queste fregnacce, qua quando hanno fondato il primo candidato concordato con l'opposizione, cioè Marini, con il sistema più antico e più da rottamare della storia, cioè quello dei franchi tiratori. Ne hanno portato un altro Prodi rompendo un patto senza dire nulla e hanno affondato anche quello. Per la verità il primo Galan, Marini, non ci sono stati i franchi tiratori, sono quelli che nel segreto delle urne, dopo aver detto lo votiamo, voto. Invece Marini è stato detto non lo votiamo da alcuni. Però è arrivato il segretario del Partito Democratico. Vabbè, ma questo infatti è il problema del partito. Che si sia sbagliato metodo all'interno del Partito Democratico nell'indicazione del presidente, soprattutto di Marini, è un dato di fatto. Cioè, quando è stato fatto il nome di Marini all'interno dell'Assemblea degli elettori, non siamo stati gli unici a manifestare. Sì, però invece Prodi è stato impallinato, c'è stata la standing ovation. Cioè, che è successo nel partito? Fatto tutto loro, non abbiamo fatto niente. Noi si sono fatti tutti da infatti, soli. Però, scusi, Bonafede, hanno messo il candidato e gli hanno sparato. Effettivamente questa è stata Bonafede, ci spieghi secondo lei parliamo del futuro. Sì, no, infatti, però chiudiamo questa vicenda Prodi. Onorevole Bonafede, secondo lei chi è stato allora a votare contro? Qualcuno, 100 l'hanno fatto. Sì, tra l'altro appunto non è un numerino, come dire, no, trascurabile. Ma io spero che queste persone abbiano il coraggio di dirlo. Molti all'interno del Partito Democratico lo stanno chiedendo. Per cui le dicevo prima, io pensavo di avere dei compagni di partito diciamo un po' più trasparenti. Vabbè, insomma, l'unica è dire nel segreto di uno è chi l'ha fatto lo dica. Però pensiamo al futuro, onorevole Galan. Esatto. Allora, intanto, adesso che succederà? Napolitano vuole fare consultazioni lampo domani e il premier già mercoledì. Vi sta bene Amato o Enrico Letta? Sono i nomi, lo so, è brutto fare il toto, però sono i nomi che circolano di più sui giornali. È brutto, ma avete direttore, a noi va bene che ci sia un governo, fatto il più presto possibile. Quello che ci spaventa ancora oggi è vedere che i democratici continuano a sparare fra di loro. La Bindi ha cominciato a sparare su Enrico Letta, sì. Ma dico, sono in condizioni disperate, il paese è in condizioni disperate e la Bindi pensa a far fuori Enrico Letta. A me, io lo dico, Enrico Letta va benissimo, Amato va bene, serve un governo all'Italia. Se qualcuno è in grado di porre fine a questo gioco al massacro che i democratici, dopo aver spiegato tutto il mondo che il loro sistema delle primarie era eccezionale, e continuano a fare, beh, per piacere, poniamo in essere subito, perché il paese sta andando avanti. Quindi va bene Enrico Letta, va bene Amato, l'importante è che si dia un esecutivo a questo paese, perché sono le emergenze. Direttore, noi eravamo pronti a votare qualsiasi nome fosse condiviso all'interno del Partito Democratico. Ci hanno presentato una rosa e poi sono loro che non li sostengono, più di così che cosa possiamo fare? Stiamo a vedere, onorevole Bonafè, però mi faccia dire una cosa, sì. Cioè, mi faccia chiedere a Garan che cosa c'entra tirare in ballo le primarie con questa situazione, poi magari me lo spiegherà un giorno, perché francamente io penso che Galan, se dobbiamo dovevate aver scelto con quel sistema che l'immagine parlamentari del mondo, aspetti Galan, sparare l'uno contro l'altro. Galan, un attimo, onorevole Bonafè, credo che voglia dire, cioè tre mesi fa si era definito un partito che avrebbe governato tutto e adesso insomma è un partito. No, voglio dire anche un'altra cosa, Galan, che siccome qui si parla anche di appunto fare un accordo insieme, bisognerebbe che anche il PDL stesse un po' più tranquillo, perché se dobbiamo guardare al futuro bisognerebbe che anche nello stile loro si ponessero in maniera diversa. Continuare a sparare sul PD, guardiamo avanti, c'è da fare tanto, guardiamo avanti, non mi sembra, insomma, anche il metodo mi sembra che voglia. E la questione del governo come la risolviamo, onorevole Bonafè? Va bene Amato? Credo di no a Renzi, a voi. Perché no? Su questo sono d'accordo con Galan, acceleriamo il prima possibile sul governo, cioè non che sia nel senso, sono d'accordo quando dice acceleriamo il prima possibile sul governo, adesso non ha, insomma, da 50 giorni che siamo senza un governo per questo paese, anche per responsabilità nostra, per cui adesso non c'è più tempo da perdere e noi lo stiamo dicendo ormai da 20 giorni, quindi acceleriamo il prima possibile, vediamo di mettere in piedi questo governo. Poi capiamo con chi, non mi piace, insomma, il Toto Nomi penso che in questa fase sia assolutamente improprio, anche perché sarà il capo dello Stato a decidere, grazie a Dio. Sì. Quindi ecco appunto. Sì, quindi, però poi l'importante, io le dico questo, l'importante è che abbia un'agenda chiara e che si cominci da subito, insomma, a partire da alcuni temi, in primis il lavoro e le soluzioni che diano un po' una boccata d'ossigeno sia alle imprese che alle famiglie. Perché, però insomma, che tipo di governo? Cioè un governo di larghe intese ovviamente, perché cioè con un governo politico e in cui voi, PD, PDL e Scelta Civica, diciamo così, vi mettiate insieme, questo mi sembra di poter dire, no? Bonafè. Ma guardi, ci saranno le consultazioni a partire da domani e questa è tutta una nuova pagina da scrivere. Io le dicevo, partiamo prima di tutto sulle cose che dobbiamo fare, quindi partiamo il prima possibile con un governo che abbia un'agenda chiara. E le dicevo, questa agenda, che è l'agenda economica, no, ma è chiaramente quella, sono i temi del lavoro, ma è chiaro, la gente che non trova lavoro, il fatto che l'Istat dica che un milione di famiglie sono senza redditi in questo momento, si trovano senza reddito, le imprese che chiudono, i debiti alle imprese eccetera, questa politica però al momento sembra abbastanza immobile. Facciamo un attimo di pubblicità, tra 4 minuti rientriamo con Giancarlo Galan, Simona Bonafè, anche gli ascoltatori 800 24 00 24, c'è anche da parlare, cari ascoltatori, se volete, di quello che è successo, le contestazioni, la gente in piazza, Grillo che fa una lunga conferenza stampa che dice è stato un golpe, poi un golpettino, le tensioni che si sono respirate in questo weekend a Roma e non solo, dite la vostra tra un attimo. 24 mattino. Abbraccio, schifo, le mortacci! Contestazioni, è stato anche un weekend di contestazioni, preso di mira Dario Franceschini, individuato da alcuni manifestanti al ristorante mentre mangiava. Ecco, questo basta, urla che te vada per traverso. Poi l'accusa sono stati i grillini, no? Dicono, ma guardate il video, c'avevano delle bandiere rosse, insomma, di fondazione comunista, cioè i comunisti non erano grillini. Comunque, siamo con l'onorevole Simona Bonafede, Partito Democratico, e con l'onorevole Giancarlo Galan, del Popolo della Libertà. Anche questo è il clima in questa situazione di stallo, immobilismo totale della politica, anche se dovremmo dire abbiamo un nuovo Presidente della Repubblica, che quindi c'è. Fatevi sentire anche qualche ascoltatore. Fabio dalla provincia di Roma. Fabio, buongiorno. Buongiorno a lei. Comunque Roma, no, provincia. Provincia, Poi la sera a Montecitorio. Ah, stava a manifestare lei? E perché? Sì, per due cose, tanto sono molto veloce. Uno, meno male che il PD non ha fatto il governo col Movimento 5 Stelle, perché sarà questo poi quello che doveva succedere. Penso che durava 5 giorni quel governo, visto che non si sono mai messi d'accordo fra di loro. Pensi un po' se si mettono d'accordo con noi. Lei è del Movimento 5 Stelle? L'ho votato da poco tempo, sì. Ero del PD e sono nauseato, anche perché poi Bersani dovrà spiegare perché piangeva, visto che io ho pianto. Guardi che, sa che Fabio, qua c'è da smentire una cosa. Oggi la moglie di Bersani dice non è vero che piangeva. Quella, c'era l'allergia? No, quando hanno eletto dice lui è un gesto che fa sempre, cioè prende le mani e si mette la faccia tra le mani, ma lo fa anche quando ride, non stava piangendo, è un gesto che fa di solito. Comunque noi piangiamo tutte le mattine, dottor Mila. Sì, io ho pianto quando ho mandato via una ragazza l'altra 2 settimane fa, lì ho pianto veramente. Ma questo glielo dico come fatto di cronaca, cioè la versione ufficiale è che non erano lacrime, però dico. Seconda cosa, ancora non ho sentito una parola scusa da autorevoli esponenti del Partito Democratico agli italiani. Scusateci se per 60 giorni abbiamo fatto spendere 100 e rotti milioni per le elezioni e siamo tornati al punto di partenza, PD, PDL con Monti Premier. All'incirca è questo, perché se va il ministro dell'economia adesso ci sfascerà un'altra volta l'Italia in due. Ma ministro dell'economia, credo, non so, Galan, lei lo accetterebbe, pare più agli esteri potrebbe essere, però qui torniamo sul Toto ministri. Grazie intanto, sì, Fabio da Roma. Non è uno sport elegante, ma se mi si chiede un parere, credo proprio che non sarebbe opportuno avere Monti ministro dell'economia. Ludovico da Bari, buongiorno. Ludovico. Buongiorno. Dica. Buongiorno, io mi rivolgo, sono un elettore di centrosinistra da più di 40 anni e sinceramente mi rivolgo all'onorevole Bonafè che è in studio là per dirgli che io e la mia famiglia siamo in quattro, le tessere le abbiamo strappate, non andiamo mai più a votare a nessunissimo partito perché ci hanno fatto schifo, ma le dico schifo, che più schifo non si può. Non è più un partito, è solo una setta di affamati, di poltrone, di tutto il resto. E a Galan, gli voglio dire al Galan, che loro per 20 anni hanno governato questo paese e grazie a loro se noi ci troviamo in questa situazione di merda. La ringrazio e buongiorno. Insomma, lei ne ha per tutti. Però onorevole Bonafè, intanto veniamo a quello che succede all'interno del Partito Democratico e mi aggrego alla domanda, o meglio allo sfogo di Ludovico per dire, le faccio questa domanda chiara. Secondo lei Bersani ha finito la sua era da segretario del PD? Beh, io penso che si debba aprire necessariamente una fase nuova dentro al Partito Democratico. E, capisco lo sfogo di Ludovico, di Bari e di tanti come lui che in questi giorni hanno scritto a me e anche ad altri esponenti del Partito Democratico manifestando tutta la loro contrarietà per come ci stiamo muovendo, e lo capisco e lo condivido anche, ecco perché le dico dobbiamo necessariamente aprire una fase nuova. Mi auguro e spero abbiamo da gestire questa fase fino al congresso, mi auguro e spero che non si perda troppo tempo a ragionare appunto di congresso, ma che si stabilisca fin da subito quali sono le priorità fase nuova un po', sì, po' dire basta, insomma basta Bersani, ecco, una fase nuova, questo. Una fase nuova e che appunto metta al centro anche quelli che sono i problemi veri della gente, perché in questo periodo abbiamo inseguito tanto Grillo ma non abbiamo detto quello che volevamo noi per il paese. Guardi, glielo dico anche con un po' di rammarico, perché sui temi del rinnovamento ci siamo fatti assolutamente battere, perché noi abbiamo portato in Parlamento il 70% di gente nuova, di facce nuove, di ragazzi giovani che vengono anche dal mondo delle amministrazioni pubbliche, che hanno toccato con mano i problemi e non siamo stati capaci di dirlo. Sui cose della politica ci siamo fatti inseguire da Grillo quando, per esempio, per esempio una parte di noi è da tempo, è da anni che chiede l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, il dimezzamento del numero dei parlamentari, quindi ci sono tanti temi, poi le dicevo prima, cioè rimettere un po' al centro il tema del lavoro, perché appunto... Sì, vi siete fatti fagocitare un po' da Grillo, ma è una cosa che Renzi diceva sempre, no? anche oggi in questa intervista Repubblica. Noi dobbiamo, ripeto, ripartire da una fase nuova e mettere al centro i problemi della gente, non più le nostre dinamiche, perché poi quello che generano sono le reazioni sconsolate degli ascoltatori che stanno bruciando le nostre teste. Questo sì. Onorevole Galan, ha vinto in questa partita, forse ha perso in questo momento, sta perdendo un po' l'Italia, ma ha vinto politicamente Berlusconi secondo lei? Perché... Beh, mi sembra evidente, ripeto, non voglio maramaldeggiare perché è troppo semplice in questo momento, mentre l'interesse di un liberale vero è quello che ci sia una maggioranza e un'opposizione entrambe forti, entrambe autorevoli. Oggi uno dei due interlocutori, la sinistra, è allo sbando più completo. Io sinceramente, senza ipocrisia, mi auguro che diventi qualcosa di serio, un interlocutore serio. Certo non sta dimostrando il meglio, anzi ancora oggi leggo nelle agenzie i veti della Bindi contro Letta, i veti Cofferati che se si fa l'accordo col PDL è rottura totale, cioè sono ancora lì sono idee politiche legittime, però le chiedo questo, magari vincenti o perdenti, questo lo stabilirà la cronaca dei fatti, lo stabiliscono gli elettori e gli elettori. Grillo che va in piazza, lei come lo vede, Galan? È disastroso. A me è l'unica cosa, siccome voglio essere ottimista perché il paese ne ha bisogno, l'unica cosa che mi è piaciuta è che si è accorto che la stava facendo grossa e non c'è andato ieri sera e non c'è andato alla sera e ha cercato di moderare con quella mezza conferenza stampa quella che doveva essere l'inizio della rivoluzione, ma sarebbe stato per davvero imbarazzante. Però risponde anche a Ludovico che dice che ce n'è, soprattutto anche per lei. Ha ragione, lo dice con un tono da Cicisbeo del Settecento, per così dire, ma ha ragione. L'unico fatto in cui sbaglia è che negli ultimi 20 anni, ahimè, ci sono stati solo presidenti della Repubblica espressi dalla sinistra, ma governi espressi dal centrodestra e dal centrosinistra. Un po' più del centrodestra. 9-8 sono stati gli anni complessivi, per cui anche negli anni 7 del centrosinistra, beh, non mi pare che si sia brillati di eccezionali risultati. No, quindi togliamoci questa immagine che per 20 anni Berlusconi abbia governato l'Italia. L'abbiamo governata pressa poco a metà, forse con una leggera prevalenza del centrodestra, ma leggera, è che evidentemente di Berlusconi ci si ricorda. E di tutto quello che hanno fatto i governi. Beh, no, leggera, un po' di prevalenza c'è stata di anni. Cioè, su 20, 13, 17. Certo, tale da giustificare i... non certo 20-0, non certo 20 anni di centrodestra, ahimè, purtroppo. No, ci mancherebbe, no. Lei voleva la dittatura del centrodestra per 20 anni, no, addirittura. Sentiamo Roberto da Milano, buongiorno. Roberto. Sì, pronto, buongiorno. Senta, io volevo soltanto chiedere una cosa alla esponente del PD. Sì. A mio avviso la linea di Bersani, cioè anche se un po' confusa, comunque era anche corretta, perché nel momento in cui non ha potuto fare un governo ha stabilito che bisognava comunque avere un presidente che potesse anche dialogare col PDL sotto il profilo delle riforme istituzionali, scindendo le due cose, governo con il PDL. Ma quale presidente, presidente allude? E non questo è stato impossibile perché il PDL non ha nessun interesse. Ma Roberto, io non la seguo, Roberto. Avanti quelle riforme che servono veramente al paese. Roberto, ma lei mi sente? Anche niente, Monti. Niente. Noi abbiamo avuto sempre. Ha spento il microfono. PDL Roberto! Ha sempre fatto delle cose per proprio. Vabbè, io Roberto l'ho seguita poco, ma lei non mi sente. sente, non riusciamo a interloquire, ma lei al telefono parla sempre da solo oppure se le faccio una domanda posso interloquire? Non ho capito a che presidente si riferisse Bersani con la linea. Comunque insomma, per lei la linea di Bersani era abbastanza corretta, però poi non si è riusciti a interloquire granché. Allora, alle 8:46 minuti, prima devo fare una domanda all'onorevole Bonafè, ma prima Jean-Jacques da Roma. Jean-Jacques, giusto? Buongiorno. Sì, giustissimo, buongiorno. Vi volevo chiedere a entrambi onorevoli una domanda prima per fare il concetto. Se loro ricordano le cause della grande crisi del 1929 negli Stati Uniti in seguito del mondo e gli errori politici che sono stati ammessi, se loro ricordano, volevo sentire la risposta e poi intervengo. Ma lei di dov'è, Jean-Jacques? Francese, no? Da Roma. No, ho capito, ma è originario di... Non sono un politico, sono economista, sono semplice cittadino. No, ma le posso chiedere di dove viene, di dove è originario? Parla un italiano perfetto. No, adesso il problema è che siamo cittadini del mondo, il problema è che io oggi sono l'Italia, è la mia seconda patria. Certo. I problemi sento moltissimo. Comunque, la crisi del 29, lei vuole sapere, vuole fare questa interrogazione a scuola, Giancarlo Galan. Sono curioso. Lei, Galan, vuole rispondere a Jean-Jacques, la crisi del 29 negli Stati Uniti, a cosa fu dovuta? Sul 29 è stato scritto di tutto, ma mi sembra francamente che qualsiasi similitudine sia sbagliata, se non fosse altro per un fatto che oggi l'economia degli Stati Uniti sta andando benissimo. Io non da economista, ma da studente di economia, per l'amor di Dio, se avessi 100 lire le investirei nell'economia statunitense. Comunque, onorevole Bonafè, un'interrogazione, scusi, è venuta qua Jean-Jacques, ci ha fatto professore a professore, la crisi del 29, Wall Street che crolla negli Stati Uniti. Sì, però non ho capito la domanda. No, ma infatti non lo so, che cosa è dovuto? Jean-Jacques, ma ci dica dove vuole arrivare, perché non abbiamo capito. Vi spiego, posso? Sì. 60 secondi. Perché per capire la crisi del passato, per intervenire su oggi, bisogna studiare e bisogna avere una curiosità naturale. Allora vi spiego che la crisi negli Stati Uniti, dopo grande spinta tecnologica, è venuta la sovrapproduzione dei prodotti, oggetti, cose che non si vendevano più. Lei quindi vuole la decrescita felice, l'ho già capito. Jean-Jacques. Resto possibile dalla decrescita felice da fesserie di questo. No, le sembra è caduta la linea. Siamo a crescere la linea. No, ho detto decrescita felice, è caduta la Jean-Jacques. Basta, è caduta la linea. Ho detto decrescita felice, boom, è caduta la linea. No, onorevole Bonafè, le voglio chiedere questo. Ci può spiegare qual erano il veto su Rodotà da parte del PD? Ma allora, diciamo che nella situazione in cui eravamo, io penso che andasse trovata quella figura che più unisse e che più, appunto, sulla quale far convergere il maggior numero di forze politiche presenti in Parlamento. Le dico anche un'altra cosa, però, che insomma, il Presidente della Repubblica è il garante dell'unità del Paese ed è soprattutto il custode della Costituzione. Rodotà, bravissima persona di cui nutro anche grande stima, c'è da dire che insomma dietro Rodotà c'è una persona che si chiama Beppe Grillo, che non è che abbia dato prova ultimamente di grande, come dire, no, di grande apprezzamento e valorizzazione della nostra carta costituzionale, e le risparmio le frasi che ho sentito. Sì. Quindi io penso che ci volesse quella figura, appunto, da una parte che unisse e dall'altra che fosse davvero, cioè, era un po' identificato come il candidato di Beppe Grillo, anche se non era proprio lui, dice mi ha scelto la rete eccetera, però era troppo identificato, sarebbe stato voler dire cedere nuovamente a una richiesta di Beppe Grillo, insomma inseguire Beppe Grillo. Ma più che inseguire Beppe Grillo è che ripeto, mi sembra che Beppe Grillo non abbia speso parole di grande apprezzamento nei confronti della Costituzione ultimamente. E insomma, Rodotà non ha mai preso le distanze rispetto a certe affermazioni, quindi c'era più di una perplessità nei confronti di Rodotà, ma le ripeto, nella fase in cui eravamo andava trovato, cioè non bisognava andare avanti ad out, Bisognava trovare quel nome che unisse il maggior numero di forze possibili, e devo essere anche sincera, cioè mi sarei aspettata da Rodotà un passo indietro nel momento stesso in cui è venuto fuori il nome di Napolitano, Presidente della Repubblica. Ora capisco tutto, però se uno deve rappresentare le istituzioni ci vuole anche senso istituzionale davanti a un Presidente della Repubblica uscente, insomma io mi sarei aspettata un passo indietro. L'altra domanda che le voglio fare diretta è questa: secondo lei Matteo Renzi, che oggi su Repubblica dice quanto durerà il governo, spero il meno possibile, 6 mesi, 1 anno, fare alcune cose, quelle che contano, ben detto, il lavoro, l'economia, le imprese, mette, e poi andare magari una legge elettorale nuova e poi andare a votare. Lei vede proprio Matteo Renzi come possibile futuro per l'Italia, imminente come premier? Senta, Matteo Renzi non c'è dubbio che sia una risorsa non solo per il Partito Democratico ma per il futuro del nostro paese, sicuramente un uomo politico che sta dimostrando anche grande capacità nel governo di una città complessa come Firenze. Dopodiché non sono scesa al toto nomi sul nuovo capo del governo, ecco, non mi di altri impegni non di questo lancio, tipo. Non si lancia, no, non no. Si impegni per Matteo Renzi. No, ecco, non mi di impegni di questo tipo, però sicuramente è una figura che io spero avrà sicuramente visibilità. Questo certamente. Onorevole Galan, lo chiedo anche a lei, immagino che possa piacere anche a lei, qui così ripartiamo con la questione degli inciuccioni, Renzi che piace anche al centrodestra. Ma no, per carità, però io devo dire che mi ha deluso moltissimo in questa fase. Perché? Perché quello che mi ha deluso di lui è il voler rottamare, il presentarsi come nuovo, ma per raggiungere i suoi obiettivi utilizzare gli strumenti più beceri e più antichi della politica che lui stesso dice di voler condannare. E cioè? No, Renzi mi ha deluso, francamente, ma quali sistemi beceri? Spero che faccia bene il sindaco di Firenze e che si ripresenti, perché indiscutibilmente sarebbe quell'interlocutore valido per un centrodestra in un principio, applicando il principio dell'alternanza. Ma no, ma non ho capito gli strumenti beceri quali i franchi tiratori. Ah, vedi che lo dice, sono stati renziani. E dire ai suoi di non votarlo, il distinguersi, beh, tutte le ha fatte. Tutte. Niente, onorevole Bonafè, vi guarderanno i renziani. Sa che oggi anche Chiara Geloni, fedelissima di Bersani, al secolo XIX dice sono stati renziani ad affossare Prodi, cioè lo schema è l'hanno proposto, poi hanno affossato per sfasciare il partito e prendersi il partito, questo sarebbe... Cioè, purtroppo c'è così una mistificazione della realtà che continua, cioè che si veda in noi quella parte che vuole distruggere il Partito Democratico, francamente lo trovo davvero riduttivo, perché non è così, e ripeto, noi l'abbiamo detto con grande chiarezza che non avremmo sostenuto Marini e con grande chiarezza abbiamo detto che avremmo sostenuto Prodi, e così abbiamo fatto. Siamo persone trasparenti, questo vorrei ribadirlo ulteriormente. Sentiamo Valerio dalla provincia di Vicenza per concludere. Valerio, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo solamente dire due cose. La prima è che come cittadino italiano sono profondamente indignato e non mi sento assolutamente rappresentato da un Presidente della Repubblica di circa 90 anni che, per quanto brava persona e stima possa avere sulla sua persona, ma è una persona di 90 anni, e mi chiedo veramente all'estero cosa potranno mai pensare di noi, che dopo 2 mesi il massimo, il meglio che abbiamo prodotto è esattamente questo risultato. Caro Valerio, le dico una cosa, e questo comunque è un risultato che è perfettamente coerente con quanto è successo fino ad oggi, nel senso che se andiamo a vedere quello che è successo, questo alla fine non è il presidente degli italiani, ma è il presidente di questa casta politica che garantirà in qualche modo di provare a tentare di sopravvivere un altro po'. Guardi, Valerio, io sposo abbastanza la società che vuole che rispondano dall'estero. Guarderanno l'Italia come solito, paese un po' strano, dove il presidente della Repubblica attuale, Giorgio Napolitano, diceva qualche mese fa: tutto quello che avevo da dare ho dato, sarebbe ai limiti del ridicolo alla mia rielezione, non facciamo soluzioni pasticciate e all'italiana. Era il 14 aprile, 10 giorni fa, Giorgio Napolitano è Presidente della Repubblica. Grazie a Simona Bonafè, Partito Democratico, a Giancarlo Galan del Popolo della Libertà. Ci seguite a Lino Milan, sono io su Twitter, 24 Mattino e la trasmissione. Da Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni e da Peter Bescapela Alpino, un saluto a tutti, l'appuntamento a domani alle 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.